sei in una casa umida, non vedo va, ti crepa tutto, ti trova la condessa e ti crepa tutto. E prima perché sono i diuri, quando vanno in corte diuri, automaticamente si va in corte secondario. E quindi si è fottito. Il discorso è quello lì. E le conseguenze come hai avuto tu. Comunque qua il coso con l'iniera ha funzionato benissimo. Un sacco di tempo, l'ho usato io. Anche lo voleva Giuseppe addirittura. Se va a comprare lui. Poi tu se ti ricordi bene, un giorno mi hai chiamato e mi hai detto ci sto prendendo a ritirarmelo. Me l'ho un freddo, un cazzo da cane. Tu figurati, e se ti ricordi te l'ho anche sigillato con i miei, perché la stavo usando. Te l'ho messo dentro la busta, infatti ho detto guarda che le miei te l'ho messo dentro la busta, perché è per acceso, quando detto, si spegne il lineare, quando cambia temperatura si possono spaccare le valvole, allora io avevo messo una busta sopra, allora te l'avevo protetto, e te l'avevo attirato, e uscivi benissimo, grazie a Dio. Poi se tu hai fatto una cordatura, non lo so, sei sbagliato a raccontarmi cosa del genere, perché quella, la cordatura, sì, massimo, devi mettere sempre al massimo quelle... quando accordi, non al minimo, non puoi accordare, cioè non puoi regolare il watt d'uscita, non puoi, 120 watt tira, 120 watt devi lasciargli e basta, non è che, non è a scatti, capito? Non è un linea a scatti, il discorso è quello. E lì è la valvola purtroppo, e quindi le valvole ci sono quei problemi lì. L'unico difetto che c'hanno quelli lì sono i condensatori all'aria, quelli variabili. Sono quelli che possono al limite, quando cominciano a essere ossidati con la gente, e cominciano a sfiammare. Siccome quello succede solamente in quei vecchi lineari che prendevano una volta, invece nel BV131 è un pezzo unico, questo qualcosa non succede con l'effetto, capito? Infatti ha già malissimo tante, parecchie volte attivano quei condensatori variabili e ci volevano l'ubicat perché non potevano usarlo, perché sfiammava, cominciava a diventare fatti di sfiammate addirittura, che ci faceva i buchi in quella rete alluminio, per dire, tu non l'hai mai visto, ma io l'ho vista una cosa del genere, in quelli lineari grossi nel Jumbo, per dire in quegli altri lineari che davano 600 watt a valvole, e quindi è così. Voi c'è tutto quello lì, grazie a Dio era semplice, c'era una cosa sola, basta, invece dopo 2001, addirittura l'anno poi ce ne sono tre, deve regolare tre, ed è un casino, se non regoli bene ti crepa tutto. Infatti ti rimane fermo, hai capito? Quindi Antonè, hai visto che si è capito questa leoncino? Gli uffici li ho anche provati, funzionano benissimo, sono perfetti. E dovessi parlare con lui, io ti do il mio telefono, se gli telefoni al limite ti metti d'accordo domani e ti do l'appuntamento dove vuoi, o sotto casa mia, o al limite scenderà lui a muro se ti riporterà lì, non lo so. Tu chiamami al telefono, io ti do il mio telefono suo e così ti mettete d'accordo. Che fai prima? Scusate un attimo. Qui siamo Giuseppe e Marco, avanti. Ciao Antonello, avevi ragione tu, il Connex 4000, quando metto la colonnina esterna funziona, quindi o è l'altoparlante o è qualche saldatura, dall'altra saldatura che io non vedo e che non voglio toccare comunque. No, tranquillo, che è l'altoparlante, già ce l'ho uno, vieni te lo prendi, e così te lo metti in nuovo, ce l'ho. Questo però sai com'è, è quadrato, 8 ohm 3 watt, però devono corrispondere anche le misure per il fissaggio con i bulloni. Ti ho detto che vieni qui, prenditelo, cazzo, sono tornato, figurati. C'è un Connex 2009 e non sono uguali a quello che c'hai tu. Quindi vieni domani, noi attacchiamo la colonna perché ci mettiamo la roba. Pare strano, Antonè, che non ci sia qualcosa sotto, che non c'è uno spinottino dove tu inserisci le colonnine, cioè il cavetto va in uno spinato bianco che si inserisce qua, non balla, tocco ma non succede niente, Antonello. Non sembra che giochi. Vabbè dai, adesso vediamo. Sto cercando di capire se è interrotto proprio la colonnina. Cosa devo fare? La sgancio e la misuro? Esatto, sganci i due cavetti, uno marrone o bianco, lo sganci tutti e due e misuri col test. Se il test non ti dà continuità vuol dire che la colonnina che è fatta. Ti vieni, domani ti pigli l'altra, se lo vuole. Non cambia niente, c'è un Comex 3009 qua buttato, quindi non fai toccato di uno, mettici l'altro. Ok dai, riprendete un attimino, che do un'occhiata meglio. Va bene, non c'è problema. Vabbè, va bene, sto scendo, perché se non sto per se no del scavo della D8, come insegnare lì? No, è buono. E cosa devo dire? Non devo dire niente, sta scendo bene. Di nuovo arriva, di nuovo l'insegnare arriva. Esatto, sì. Dice tanto poi, no, perché c'è un problema di questo scavo, quando cambiamo dalla parata all'altro si allenta, domani può pensare da sole. È stata la casa a piede del G8 e c'è un casino che sono stati soffitti anche domani, che era un come si chiama di altri 22 metri e non voglio sentire un mini, hai capito? Perché c'era quel consiglio una pista, mi sono stato lì qui tutto il regì e degli anni 70 e l'ho comprato nel 76, l'avevo comprato, lo sai dove come? Da come si chiama? Da quel negozio che rendeva Principessa Maria, come si chiamava? Pure non mi ricordo più adesso, già la Viglia, quello veniva solamente a toccare e venderla. La vecchia non me la ricordo più, tutto lì negli anni 70-80, no 70, non 80, quindi figurati. Andava solo di quella roba lì, toccai e cose del genere. Quindi non mi ricordo più come si chiamava di nome quello lì. Era vicino alla cosa, alla numero 3, si chiama Telegrappa. Questo non si chiamava. Uno si chiamava Mura, eccetera, Gianni Mura, è possibile come? Gianni Mura c'aveva il negozio in via Coso, che faceva arrivare le Firenze 2, quello che stai dicendo tu, che poi adesso non so che fine abbia fatto. C'aveva il negozio in via d'Italia, mandava la baracchina, dopo la via, una volta buttato di fronte al fornitore, dopodiché poi è sparito, da lì ci ha spedito dove c'è la discoteca lì a corso, sotto la discoteca, poi è sparito, quella componente di tu dice basta. Beh, no, me lo so, messaggerie elettroniche, secondo me, messaggerie elettroniche era il nome, adesso me l'ho ricordato. Già lo so, già era quello infatti. E ne va la Firenze 2 famosa quello lui. L'unica Firenze 2 era il Maggio Besugrat, l'hanno attaccata, era la Firenze 2 e la Mini. L'hanno attaccata da Berizzetto, poi ci hanno buttata. Sono l'avevo presa io, era l'unica Firenze 2 e pompava le cose amare, era lunga 1,20 m, è ricatta e faceva 4 guardiali verdi. Scusate, come si chiamava quel negozio di elettronica? Cagli di elettronica, che via Principessa Maria, però era come l'ho conosciuto lì. Adesso sto facendo pagando con la memoria, era proprio lì Gianni Mura. A sé, via Principessa Maria era, me lo ricordo benissimo, hai capito che è andato lì, andato in pullman, non l'altro macchina come allora, ero un ragazzino. Messaggi di elettronica, Marco. Allora, io in via Principessa Maria, se non sbaglio, avevo comprato nei primi anni 80 o prima metà degli anni 80 un televisore a cristalli liquidi, quelli tascabili, addirittura in bianco e nero, non c'erano nemmeno a colori, una cosa mai vista, era della Citizen. Non lo so se ne prendeva lì, io non so cosa andavo lì a comprare, i quarti andavo, i quarti anche perché mi avevo fatto una portiera esterna e recuperavo un po' di canali da Pugliaro no, dalla GPC era, dalla GPC era messaggi elettroniche, perché alcuni mi mancavano per farla tutta a 23, me l'avevo fatta per la colonima di Panzer, e capito, Pusarone a tutta quanti mi sembra, era la GPC e proprio e anche qualcosa ce l'aveva Melchioni ce l'aveva all'epoca in via di San Francesco. Ok, però questo è il messaggio di lezioni che non sbaglio, però insomma. E c'è quello comunque. Allora, mi sono ricordato male, Adriano, che si chiamava Adriano Cao. Se mi sbaglio, era così che fesserie. Ma quello è molto loco, quello di Umberto, Adriano. Allora sai che io Adriano come l'ho conosciuto? Quando ero nei carabinieri, Antonè, ero in convalescenza, mi ero iscritto all'Istituto Europa per pigliare il diploma, per conseguire, per pigliarmi il diploma di yoga, perché mi mancavano, hai capito, dall'arma oggi me ne esco, e c'era Mirko Addisi lì, in via di Umberto, lì, alla moglie di Adriano, che lavorava lì dentro, hai capito? E avevo conosciuto Adriano lì, avevo conosciuto. Quello Adriano che aveva dato qualcosa a Marco Micchi, ti ricordi? Sono lavorato con Marco Micchi, anzi in maniera precisa ero lavorato con Scioppa, la verità. Anzi, in maniera di esercizio c'era anche Gabriele, Diana, che è passato da con Scioppa a Gabriele e Diana. Poi di Gabriele Diana si è andato per i canti sui, così anche con Scioppa, e poi sono subentrato io. E sono subentrato per 4-5 anni di lavorare, figurati, alla Firmi Ponti Radio. Quindi, te lo sto dicendo proprio molto, in quel periodo lì c'era l'Escopost, faceva il verbalino e faceva anche io. E mi sono salvato il culo, perché eravamo pari, uguali e pari eravamo. Il periodo, io lo sto parlando anche me, Adriano ce l'aveva, era ancora Scappolo, nell'83 avevo comprato il primo 40 canali. No, nell'84, perché già avevo comprato la Oilo in dicembre 83, la Salvo. E Baracchino non ne volevo mai mettere, avevo il Catalina, che pure è stato di 91. Però pure Antonio, ho messo a cosa l'antenna sua della Oilo, e gli metto la, che era il buco, ce l'ha già, perché mamma non voleva toccarla, e no, è di buona antenna, e vabbè, non è buon fatto. Poi, capito, la passione Antonio, capito, non sai com'era. Sono andato e avevo comprato da Adriano l'antenna, sì, ma quella che aveva la molla nera, Antonio, con la chiavetta. E avevo comprato, c'era quella, l'Intex 410, che ce n'è uno in garage, però il mio proprio lavorato a Gesù, io te lo voglio bancare. Hai capito, l'84, poi Adriano l'aveva fatta Marco Micchi. Esatto, ok. Marco, guarda che la comina... Sì, ce l'ho. C'è la comina originale delle baracchino tuo. Ce l'ho qua. Quindi sei a posto. Quando vuoi ritirare, te la vieni qua, te la piatto, ci sono le quattro viti, quattro bulloni, eccetera, eccetera. Non riesco a sfilarla per Antonio. C'è un piccolo tassino da premere in quello spinottino e poi sfilarlo, ma qua non c'è spazio, è un casino, non posso nemmeno misurarlo l'altro parlante. No, non sfilare niente la Rino, certo, attaccano i cavi dove c'è la cacchiata altoparlante, c'è un cavetto marrone e un cavetto nero, basta. Lascia lo spinottino dove è, fregatene di quello. Ricordate sempre, quando tu infili le cuffie, se le cuffie funzionano, non funziona con una esterna, quindi vuol dire altoparlante, c'è poco da sbagliare. Quindi stacca, come si dice, stacca solamente lì, con la forbicina, tagli il cavetto che porta dalla cassa, basta, arrancia dalla cassa, non devi fare altro, e misuri tu da cassa, se ti segna continuità la cassa è buona, se non ti segna continuità vuol dire che la cassa è crepata, te la cogli subito col testa. posso sistemare. Ecco, ma chissà perché si è rotto. Comunque, quando premi la portante, cioè quando tu sei in ricezione poi premi la portante, fa una bella boccia di zoom, è normale, no? In questo apparato è sempre stato così. Ci siano questi colpi che abbiano rovinato l'altoparlante. Eppure anche a volume alto andava bene, boh, non lo so. No, non c'entra niente in questo, non va sempre il colpo, non anche, anche a me addirittura lo schiaccio, infatti. Tu figurati. Quindi no, no, non è che preoccupate in quello. E domani mattina te la piazza. Non mi costa niente. Quindi controlla la coltezza, ma sicuramente crepa, se è tutto funziona è crepato, c'è poco da controllare. Spengo un attimo e riprendo dopo. Via. Stasera mi sembra che mi volto questi era Leoncino in frequenza. Ah, boh, vedo, non lo so perché io fuori, non so cosa dirti. Un babbo magari che c'era, se c'era, cioè, mi chiama al telefono, ti do due volte il flusso e lui gli telefoni adesso e ti mette d'accordo per domani. E così ti dico di quello apparecchi. Ma tu lei volevi un altro apparecchio e cambio di quelli, così è. Io non volevo niente, la verità, è roba sua, sono due HB23 suoi, non ne voglio io di apparecchi. Lui voleva 150 euro ogni apparecchio, basta, non voleva altro. Poi ho qualcuno di formazione, un Midland, ciò. Devo sistemarlo, che è suo lo stesso, e vende anche quello. Non mi sembra, o forse tiene, non ho capito. Che conti canali c'hai di Midland? 50 canali MFM, l'ala 18. Io lo sai cosa c'ho invece, sotto mano? Lo sai cosa c'ho? Un tram. Hai sentito mai l'apparecchio tram da stazione base? No, l'unico tram che conosco è la 5 quando passa qua, sono la 4 carburanti. E quello stazione base, perché cazzo ce l'ho pesa? Io? Queste cose pure trasferisco a casa e quando vado a abitare a Bravo Oscar mi porto via tutto da qui e lì dove starò per sparare. Mi sentirai dal padre di mia moglie a Sassari a bomboletta, dove quando parlo parlo a bomboletta. E dove vai? A Bologna? O a Bologna? Bologna, mia moglie è di Bologna, non è che ha detto. Io c'ho come si chiama? Che la buona è una discorsa, la sua comprata, una casa dove che una casa che abita come nessuno, no? Perché l'ha comprata qui perché c'era un piccolo orticello quanto una camera. Vedo queste cose, c'ha un piano sotto e un piano sopra antica, però è capito, mio cognato gli ha fatto un po' la carta e vede vuole e lì farò la mia stazione base quando ci vado e hai capito e mi porto tutti gli apparati via come e quindi da lì sparo anche la direttiva posso mettere lì è domata e lì ci girami perché per lì non c'è sempre quell'idea tanto mi cognati ha detto qui non ci passiamo manco perché la casa è di fronte di mia suocera lì c'è anche un'altra attaccata che diciamo. E tu dietro non ci entriamo mai, qualche cosa volta andiamo nell'orto, piantiamo prezzemolo e io adesso mi faccio la stazione. Collego un capo da casa di fronte dell'elettrico quando le fui. Sono lì, ogni volta che vado me ne vado a parlare lì. Hai capito? E c'è questo strano sotto mano, un bel apparecchio, molto bello. Eccomi. Fatto Marco. Ehi Antone, l'altoparlante è 0 sotto 0, è fottuto l'altoparlante, proprio andato, interrotto, e così Antonello ci ha preso ancora una volta. Oh Gianni, Antonello guarda quando può mi ha sempre aiutato, mi ha piazzato l'antenna lui, mi ha passato il cavo, mi ha fatto salature, quando non potevo modulare mi ha prestato l'accordatore, Antonello sì. Antonello, posso fare affidamento su di lui, almeno per queste cose qui. io a Marco di altro parlato ne avevo un sacco. Quando ho pulito il garage poi in corso avevo fatto pulizia anche quelli, perché io avevo un sacco di baracchini che non funzionavano, delle palettese, quelli a 40 che io ho sempre, diciamo, non mi sono mai interessato perché non sono degli ultimi apparecchi. E diciamo che molte cose si cannibalizzavano, quindi fa quello, già c'è quello, figlia di questo, l'altro, e gente che si direttava all'epoca. E anche in altre parole ne avevo un casino, poi ci ho buttato via tutto, cioè, ma guarda, che avevo anche degli autoradio degli anni 60, l'ho fatto quanto, due li ho dati, addirittura mi ha detto per anche a valvole un autobus, ma hai fatto caso. Quindi ho parlato della cosa del genere, capito, per pulire, per stare garagino, mi ha morito passare dei 23 canali, hai capito, ne ho fatto fuori parecchia di roba, se no anche ho parlato di qualsiasi tipo di cosa, per esempio qualche tipo mi servirebbe a me, di quelli quadrati, tipo quelli che c'erano il tocca, che io ne ho fatta di roba, Marco, però diciamo, quando lo metti a posto, poi metti a posto il garage, ho fatto fuori anche parecchie moto, ho fatto fuori. E purtroppo è così, però Antonello, sì, quando c'è una cosa, Antonello, so benissimo che è di buon cuore. Riprendi, Antonello. Antonello, un'ultima cosa. Adesso abbiamo pure l'altoparlante interrotto, ma io posso misurare col voltmetro se arrivano volta i finali dell'altoparlante? No, tranquillo, non toccare nulla, lascia fare così che l'altoparlante, ho detto io l'altoparlante. Ti accorgi subito, ricordati una cosa, quando se il finale audio non funziona, in cuffie non senti un cazzo. Se tu ti metti adesso, ti arrangi un paio di cuffie, se in cuffie senti, e invece l'altoparlante se non lo senti, quindi vuol dire che il finale sta funzionando, non c'è bisogno neanche di misurare niente. Hai capito, Marco? Io infatti me l'avevi detto, Antonio, se in cuffie o altoparlante esterno funziona, vuol dire il finale audio è buono ed è l'altoparlante. Ascolta, quindi tu non togli nemmeno lo spinottino bianco che c'è sul PCB, no? Li saldi i fili direttamente, i filettini che è proprio attaccati all'altoparlante. Esatto, sì, faccio così. Ah, poco compreso, da. Ma peccato, perché non ho fatto niente di strano, per esempio non l'ho mai messo a manetta, a tutto volume. Vabbè, è capitato, d'altronde Antonemi, è un apparato del 90, quindi, e quindi 90, 2000, 2010, 24 anni di apparato, ad altri non è capitato, a questo è capitato, meglio l'altoparlante che altro. È appunto per quello. Una presso, cazzo, Marco, questa deve essere fatta tutta, cazzo, si chiama Extra Gifu, ogni giorno mi mette foto porno, cazzo, sue, deve essere mezzo pazza questa, cazzo, no? Mi mette le cose di messaggio, ogni giorno, cazzo, che io accendo, cazzo, mi appare il messaggio suo, devo controllarmi le fotografie sue, cazzo, no? Ma questa deve essere mezzo scema, non è neanche italiana, è roba russa, non si capisce un cazzo quando scrive. Come rispondere, hai capito? Non fa una grinta, non fa una grinta, hai capito, sta funzionando la grinta. Ossia, come sei un genio. E niente, Antonio, hai capito? Sto parlando, uno me ne servirebbe di quello che ti ho fatto l'altra volta, ma quando avevo fatto parte se ce l'hai me ne sarai, hai capito, non farò, hai capito, da qui diciamo che c'è in Europa e se posso ti avrei aiutato volentieri a Marco Pondo, però io so quello che ci è rimasto, dove avevo fatto piazza pulita, abbiamo lasciato tutte le cose, diciamo proprio che riguardano i 23 canali, perché roba così non ne ho e più. C'è qualche canale che c'è qui che funziona, il Midland famoso e basta, poi c'è quello c'è tanto flusso della casa, funziona come. E capite gli altri che ci sono la soprammobile, però mamma con il trasporto di quelli. Ah, meno male c'è un po' che la bagna. Figurati. Pensa che a vino, a Betta Verde, te lo so io ogni tanto. mi parla, guarda, io l'ho cucito addosso quell'uomo, tante cose mi ha imparato da me, hai capito, una persona veramente brava e mi dispiace che non ho potuto partecipare al suo funerale, che non sapevo, quello lì è, mi aveva dici quella storica, tutti lui me li ha dati. Guarda, c'è anche la sua pubblicità, quando ti faccio vedere il primo ciclo elettronica, quando sono nel 72, quando sono arrivati le apparecchiature, che sono, c'era proprio il bomb, capito? Ti faccio vedere questo ciclo elettronica, che quello è una banconota da... Hai capito? E lui era una grande persona. Me lo so, vieni qua, lo sogno, mi fa, sembra davvero, sembra come... Tante cose, ne ho regalato l'oscillatore modulato che è a Paolo e poi da lasciarlo fermo e l'oscilloscopio, ce l'ho io in garage. Guarda, se ne è andato lì Antonelli, che è stato un grande tecnico, soprattutto della roba a valvole, perché sulla roba a valvole Antonelli non aveva rivali e lui, cioè, forse qualche volta ci andava, è vero Antonelli? No, veramente ci andavo solamente per comprare qualcosa ogni tanto, perché ero lì, non per altro, ma ti parlo di alcuni anni fa, poi non ci sono più andato, allora vi piace di chiaro. Poi l'ho preso di vista e quindi, cioè, sarebbe qui su paese per conto mio, avanti Marco. Eccomi qua. Adesso chiudo questo qui, mi metto le quattro viti e poi se posso domani, se posso passo, sempre impegni tuoi permettendo, perché io impegni non è che ne abbia, io sono allo sbando, però Antonello è un po' di più. Antonello, sto vedendo proprio in questo momento il famoso ponticello J9 che dietro tuo... In tua indicazione avevo tagliato per eliminare Roger Beep, che qua era fisso, io non lo volevo Roger Beep. Ho capito, meglio così, allora la vittoria. Beh, ci sono le cose di tanto. Sono diventato di quello che ho detto io adesso questo periodo qua. Con mamma, non penso più neanche a fare riparazioni, ciò la taglia presto perché mamma mia, non te dico niente, guarda. E quindi sono diventato esaurito, guarda che essere stressato, anche il cane addirittura mi scubi è stressato più di me, più di Dugat. Adesso questi giorni che mamma è a cosa, a casa di mia sorella, il cane sembra rinato. Si è trovato un tipo subito matto. Si è visto ma che era l'altoparlante, quindi non è... un problema grosso, diciamo, roba che si può risolvere, hai capito? E, ma quando rimangono fermi capita, anche i microfoni, ma... Ok, un attimino, che qua chiudo tutto. Vai, vai, anche io ogni tanto apro, chiudo, hai capito? Fai, fai, ma c'è quel rischio di la roba qui. Ok. Ma no, va bene, tutto sta funzionando alla grande di nuovo. E quello rimane spento, ma anche se lo lascio, lo lascio alimentato, così è stato via lo stesso. È un peccato, di nuovo questo. Stavo vedendo la cosa. E qua, bene o male, un po' di scariche, addirittura... Ecco. Vabbè, d'altronde, va. Parati vecchi, ma... Vabbè, dai, adesso chiudo tutto, mi assento un attimo e chiudo le quattro viti. Dai, sai che io, anche io, lo sai che molte volte mi metto... Io ho la stazione dove dormiamo, hai capito, a casa di piccolo, tanto volevo fare la cosa che sale da 50 a vedere viti, volte faccio, ho detto, se no me ne vado, no, non lo fai lì, perché poi vado in garage, sì, c'è la luce, dopo quello che vuoi, ma però hai capito, non c'è antenne, molte volte, quando faccio una cosa, devo fare qui e poi fare qui. Ok, fai, ti capisco benissimo, ma perché è una cosa che dura da... Dal 72 siamo nel fu nel allora, parecchi anni siamo portando qua. Siamo andati sui 40, 42 anni di cosa, 42 anni sono che dopo queste cose. Hai capito? Sembra ieri, quanti anni questi agiti sono attaccati. Si era fatta il giorno quello, che pensavo che stava giocando come uno scemo in macchina, ma come ti ascoltava, stai chiudendo. E invece era questa roba, era un toccai, che aveva non neanche a 5 a 23, un toccai a 12, io subito mi ha fatto, ma che anche se facendo, sto parlando, sto con chi, ma io pensavo, e la mi dirà tipo chi tu che parlavano a 50 metri, ma la roba subito mi ha affascinato, a me un zio che abitava vicino, prima se l'ha comprato lui e quindi la cosa, la malattia me l'ha contagiata lui. Non sai che sono stato anche bocciato l'anno a scuola, perché stavo sempre con il fine alla macchina di darmi le chiavi in modo alla macchina guida, hai capito, una roba bellissima, perché poi non ci ho messo le mani, ma hai capito, a modulare, hai capito, e a essere una cosa mia il baracchino, e tanta gente, hai capito, che si è conosciuta, che mi teneva compagnia, perché era il paese dove era, anche adesso non c'è niente, però era una cosa proprio, forse io ce l'ho e gli altri no, mi teneva già in alto, però diciamo che era odiato perché mi sono dato televisioni, hai capito, si vedeva male, allora non c'erano tutti questi canali, c'erano prima e secondo, non c'erano i ripetitori, insomma, qua adesso della RAI, con le antenne si vedeva neanche adesso, quando si vedeva male il baracchino sta disturbando la televisione, quello lì, tutte cose che io, hai capito, ho toccato con mano, ho sperimentato, purtroppo, incantatore all'altro, non mi dici, ma hai capito, parole, hai capito, mi capitano sempre nel vicinato, anche se il baracchino molte volte rimane da fermo, si guarda male, il baracchino sta disturbando. Occhi. Mi sto facendo un pochettino di collo, cioè. Marco sta chiudendo il tutto, ho parlato di quando l'ho visto per la prima volta, era un toccai come questo, mi ha detto lei, come 5 era 24, però era 12, veniva questo paesano nostro, un ragazzino, eravamo, io le vendevo 2 anni, e ogni anno aspettavo perché stavamo assieme, e c'era, dentro questa macchina dello zio, no, come stavo dicendo. Ma vedevo, ma che chiede se non ci sono, che cazzo sta parlando, non ha visto questa roba, questa cosa è questo il baracchino, e cos'è il baracchino? Una cosa, un microfono, c'è un vento, questa cosa che tu mi piace a me, e così poi lì abita uno zio che era attaccato di casa, e l'ha comprata lui, andava da lì, iniziata l'avventura nella 27, hai capito? Troppo bella perché tu già lo sai che sei vissuto anche tu quegli anni, ma anche adesso ci stiamo divertendo, vai, non è male neanche adesso, e siamo che siamo un po' fuori di più, però siamo tutti maschi, Antonio, e capito, prima ci ha fatto anche il sesso, e adesso diciamo, capito, la radio è diventata una roba proprio per noi, cambiamo, e siamo sempre anche noi, tipo i radioamatori con cose tecniche, come questo microfono, gli ho messo questo qui, hai capito, prima si parlava, hai capito, di tante altre cose, anche, vabbè, ma adesso va bene ugualmente, va bene, purtroppo, capito, l'era dei Facebook, forse, computer, hanno lontanato la gente, ma lo so modo la sera, un po' con Giulio, un po' con quello, un po' con l'altro, si diverte, capito, la roba continua, il segno com'è. E forse faceva l'amore, ma la cena tutti i giorni, conduto qui, conduto là, uno, quindi, con le tue. Ma io l'ho fatto, a Toreno, adesso. adesso, non nei primi anni proprio del POM, della frequenza, sto parlando negli anche i primi anni 90, capito? Si compravano il baracco, non sai cosa mettono, il baracchino, capito? E si mettevano in un canale, hai capito, il canale erano 40 allora, un canale modulavano in lavoraia nel suo baracchino, hai capito? Di una moda cosa l'avano sperimentata allora, hai capito? E lì diciamo a Sassari, perché qui i cibi siamo stati sempre. Sono l'unico che di più sono io che sono CB qui, che mio cugino che ce l'ha nel camion, però mi era venuto molto dopo, hai capito, ero io e mio zio che abita Sorso, e poi Ariete che era portato Pasquale, che si chiama Ariete, che abita a Chiaramonti, hai capito, e poi no, l'ha tenuto anche poco, e quindi ma il nipote, ripeto, io con questa roba, come ti stavo dicendo, nemmeno subito rimasto affascinato. E così è un po'. Ma prima c'era un sacco di come si chiama, che ragazzi, io si sono conosciuto, questo stiamo parlando negli anni 90, da oggi modulavano, e capito, e c'era che cosa, le cose, so, poi che fine ha fatto al padre, e voglio chiedere perché il capitano di Barrancelli, Emanuele, tu ricordi di oggi? No, non me lo ricordo per niente. Ti volevo dire, ma tu la mattina sei a casa, giusto? Tu lo vuoi piace a casa? Non lo so Antone, non ti dico perché io vado e torno, anche stasera ero a casa, poi sono riuscito di pentolare per 10 minuti e c'ero 2 ore e mezza fuori. Perché Antone? No, perché se tu vieni a tirare 10 e mezzo sali su a Sassari, vai nel circolo del fratello di Giuseppe, dove Giuseppe dove a tira? Potrò venire direttamente in via Torino. Capito, ma tu vai in via 4 novembre, poi giri via Torino e c'è il circolo, cioè fai 20-30 metri, una cosa del genere, c'è il circolo, capito? C'è non ti posso dire come si chiama, una salanda, ecco, bianco, quello mesh, si chiama, e lui c'è il circolo lì, si trovi a lui lì. Così almeno ti farei questi baracchini, ti farei accompagnare e ti farei questi baracchini almeno. Ma non lo so ancora neanche io, non lo so neanche per altre cose, no, domani a muovere, diciamo, dove se esco, esco senza macchina, perché c'è un sacco da fare, o non esco per, capito, lo lasciamo un altro giorno, come la roba, perché sono impegnato in altre cose, capito, sono dedicato delle altre cose, cioè non... hai capito, non sto dando come si chiama certa molte volte che vado oggi, per esempio ho invitato a Sassari, hai capito, per quella manifestazione, ma io come non vado a nessuna manifestazione del genere, hai capito, sono una persona molto, hai capito, riservata e niente, domani non lo so, ma quasi che poi se zampe metto in moto, però ho progetti non è faccio, hai capito, come se devo uscire, se devo fare questo, fare, cioè perché molte volte che faccio cose e poi capita un altro indico e rimango, hai capito, tagliato in altre situazioni, hai capito, hai. Ho capito, oh, ma siccome riconosco a te io come sei fatto, come hai fatto l'altra volta che tu mi hai detto, dice, ci vediamo un altro giorno, poi mi ha chiamato a Maracchino e ci sto arrivando, siccome conosco a te come sei fatto, quindi ti sto dicendo per quel motivo lì, se vuoi a Tina, tu vuoi trovare a Giuseppe, lo trovi in quel circolo che c'è lì in via Torino, basta che vai in cliente in via 4 novembre, poi di fronte al circolo in giri, hai capito? E fai 20-30 metri c'è il circolo, c'è, e trovi a lui, così almeno ti metti d'accordo, vedi, guardi questi apparecchi, addirittura c'è l'adesivo, no? Originale, con la data di costruzione, che è una cosa molto molto, che io non ho visto la verità in quello che avevo io, quindi è un apparecchio originale, forse rimane di magazzino, questo non te lo so dire, comunque sia c'è la data 1967, uno, l'altro è 1964. Eccomi. ti interessa o no? Questo vicino c'è lo disinvocato dietro, ho detto guarda, qua no, Giuseppe ha detto non attaccarlo, non stava per attaccare, non attaccare niente, come dice scritto la data di fabbricazione 1967, cazzo, è una cosa allucinante, non l'ho mai vista io in un apparecchio. Guarda, se avessi avuto una scatola di quelli due apparecchi lì, quegli apparecchi sarebbero stati valutati minimo 120 euro l'uno con la scatola, perché lo, tu lo sai più di me, come fanno in America, se c'è la scatola che c'è tutto originale, la roba la doppia, la metti su internet e te la vendi al volo. E tutti te la prendono, compreso anche il schema etico, quello che ti pare, quello che è comunque. Ehi, vabbè, a chi piacciono, se sono ben tenuti meglio ancora. Io l'ho visto tanti anni fa l'HB23, ma non mi piace proprio di stile. E poi Antone, io mi sto orientando più sul nuovo, sugli apparati nuovi con componenti classici, però tipo il 3009, quel Magnum e poi più questo, sono fatti bene, schede PT3006, facile da aggiustare, la gente c'ha esperienza su queste schede, capito, non è roba strana, SMD. Infatti quello lì ce l'ho buttato tra virgolette, non buttato, ma è come se fosse buttata. Vabbè, non c'è problema per quello. No, io di quella cosa lì non sono appassionato, la verità, perché ormai io chi viene a casa deve sempre regalarti, la verità. Quindi no, non me ne fate niente. Io ce l'ho la capibilità, ce l'ho Ussi. Non devo fare altro che andare a ritirarmelo e poi non posso che regalare, non faccio niente. Il discorso è quello. È roba che non è mia, che è di un'altra persona e basta tutto lì. Siccome Gianni è interessato su queste cose antiche, quindi io lo vedo a lui. Poi se ce ne hanno due, non è che me ne frega, poi non voglio avere niente a che farci io. Comunque gli apparecchi sono nuovi, messi bene, e addirittura c'è la cedovina come dell'anno di costruzione, che è roba che non ho mai visto, la verità, neanche nel mio. Quindi sono originali, ma se avessi avuto la scatola di quei due apparecchi avrei fatto 13, avrei fatto, perché sarebbe stata minimo anche 200 euro su internet, per dire, avrei fatto l'affare, quindi no, non per 50 euro, ma avrei vinto 120, anche 150 euro lungo, per dire, perché la scatola può dire molto, in America è così. E anche in Italia addirittura, se c'è la scatola, le istruzioni, la roba vale il doppio. Qualsiasi cosa che ci apri, un baracchino, la bambola, quello che è, ma se c'è la scatola, noi purtroppo ci avevamo l'abitudine di buttarci le scatole e quindi la roba vale di meno, per dire. Invece la scatola bisogna conservarle. Che vuol dire molto, scatole con le cose, vuol dire veramente molto, vuol dire. Sì, ma da 67 Antone, non posso dire scatole, capito, di un'apparecchiatura fino, siamo nel 2014, uno come padre, io già ero di quelli, come ne levavo gli apparecchi, ti buttavo via la scatola, il malfatto, capito, anche perché era una cosa che poi non la usavi, la rimettevi dentro ed era stata, cioè, ma è una cosa che fanno tutti, cioè, quando si compra una cosa, poi la scatola ce la butti. E invece la scatola vuol dire molto, facciamo quello sbaglio noi, vedi, se io, per dire adesso, andrei in un negozio, prendo un baracchino e io ho la scatola la conservo, non ne frega niente, perché fanno un sacco di soldi, fra 25 anni, 30 anni, quella parecchio lì, che magari ho pagato 300 euro, che magari le cose cambiano, ne vale il doppio, hai capito? Il discorso è quello, dopo 50 anni, vale il doppio, vale. Non c'è rimesso niente, hai capito? Il discorso è quello. Perché vale una scatola con istruzioni, vuole la gente. Se tu la roba la vendi così, in America fanno così, se tu c'hai la scatola, hai fatto 13, se invece la porti la roba così, e vado a fare di meno, magari se c'è anche una macchia per dire cose del genere, non te la valutano così, capito? Se tu guardi TV Max per dire Focus, quei programmi lì, e tu guarda la gente che va a vendere la roba in questi mercatini qua. Se c'è una scatola vale un sacco di soldi, c'è un sacco di valutazione, per dire. Se scatola non c'è, si è fregato. Io parlo solo delle apparecchiature elettriche, con i baracchini e cose del genere, poi magari ci sono spade e pistole, mica gli potrà limitare la scatola, no? Stai scherzando. Io so, però la scatola è più di tutto, come quando si compra una cosa si butta via, hai capito, o di qualsiasi cosa, che c'è il periodo magari quanto in garanzia l'apparecchiatura e poi ognuno prende, se la sua volita si mette, se la butta, la brucia, hai capito, come se è sempre fatto. Ok, ma chi sei? Non riprende così Antonio, dice il titolo este, le 10 e tutto, sono le 10 e 20, hai capito, sono anche un po' stanchino, ho fermo che questa cosa, non lo so, sono le 11 e 20, nei tempi che sono salito della notte, tutte le 9 e mezza, ok Antonio, io chiudo perché no. Un po' stanco e quindi lo lasciamo a domani, lo lasciamo e hai capito, a modulare. Saluto a tutti, a Marco, a te, se avessi l'ascolto, hai capito, mi riposo, hai capito, e domani se ci siete ci facciamo una giocata, dopo in macchina, dopo la vostra, perché ogni volta che faccio 30, poi anche l'altra sei direi quando la vedere le motorette, fa la cosa, poi tutto a posto, sì, un altro impegno, hai capito, e quindi è saltato anche quello, ma diciamo ancora che gli attenenti che li voglio vedere io quegli apparati prima. Cosa vuol dire? Io se lui li vede prima non posso farci niente, è colpa mia. Ti sto dicendo, se tu vuoi sbagliati a trovarlo, tu vi dico. Da fratello, sono fatto che entrare in quel circolo e quindi tangi con lui, non lo so. Io oggi non l'ho visto perché non c'era a casa, quindi non ti so dire niente. Se per caso magari mi dovesse portare, io ho già detto a lui, no, gli ho detto guarda, se lui dovesse venire, se Gianni dovesse venire, telefono a te, vieni con Gianni, tangi con Gianni, perché io non voglio più avere problemi con nessuno. Si è battato una volta e quindi non ho. Anche su con lui, se vuoi fargli uno sconto, vuoi fargli uno sconto, se vuoi fargli quel pezzo lì, fare quel pezzo lì, non lo so. Tutto lì. Basta che lo dato tu a lui, lo vedi, lo trovi lì comunque. Perché lui si apre lì tutti i giorni. Dalle 10:30 in poi lo trovi lì. Arrivi. Tanto ce l'hai, mi sembra in cofano, in macchina ce li ha con gli apparecchi, quindi già li vedi subito. Subito accompagna a casa sua, non lo so, li fa bene, li proverai, perché io l'ho provato e funzionava benissimo, tutti e due, sono belli la verità, sono belli. Solo che io non sono appassionato, io gli apparecchi vedete canali li ho sempre dati agli altri, perché non me ne frega proprio niente. Non mi piace, non ne voglio più sapere, ma ci sono 23, HB23, cosa del genere, non me ne frega proprio niente, mai capito. Io a me piacciono roba, 40 canali, 200 canali, quello che è. Dire o se no un apparecchio elettrometrico, ce ne sono tanti di quegli apparecchi elettrometrici in giro, gli FT7B, 250, ce ne sono parecchi a poco prezzo, basta girare per dire. Quello sarebbe il più bello che guarda, il più bel regalo che avevo voluto avere a casa, guarda. Devo solo trovare la persona giusta per farlo mandare, guarda. No, non altro. Ma non ti preoccupare, già mi sto organizzando adesso. Quello è bello, mi piace troppo quello lì. Non me ne frega. la nulla, se non colata me la prendo da solo, se non dovesse essere un apparecchio bello, allora ho fatto 13. Però sono l'unico bello qua. Io ho sentito in modulazione, troppo bello, troppo bello, in bande di camette, che sembra che stia parlando di AM, ricezione di trasmissione, quindi è troppo bello per quel motivo lì. Solo che ero la persona giusta e quindi non è che posso fare miracoli io. Adesso vediamo un po', devo chiedere a un amico mio se riesco a farmelo avere. Vediamo un pochettino, se tutto va bene, Marco, si fa una bella, appena arriva si fa una bella cena, a costo di sbronzarmi tutta la notte, non mi interessa un cazzo, ma almeno mi piglio la soddisfazione di usarlo. Il problema è che se vuoi essere in uscita 27, quella è l'inculata, l'incognita, perché se faccio le frequenze dei cammini che sono fregato, cosa me ne faccio? Non ne faccio niente. Non posso solamente riprendere e basta, al limite, ma non ci rimetto nulla. Però se va bene 627, ho fatto 13, ho fatto. Allora, sul sito della ditta dice che è a Salti, però quel radiatore ha detto che copriva tutto sintonia continua in TX, in trasmissione. Allora sono fortunato, visto, meno male, meno quello, cazzo. E allora Adriano mi faccio fare un bel lavoro, Adriano, in modo che faccia tutta la copertura continua. No, cosa lo fanno loro? Alla ditta te lo fa, se già non è così, loro ufficialmente dicono che copre le bande a marina, ma poi fa quello che deve fare. Ok, Gianni, ma ho capito che stai andando via o un'altra cosa? Ha chiuso. Ah, e vabbè, non ho salutato. Ciao Gianni, se sei ancora all'ascolto. Buon querenti. Vabbè. Bello dentro questo apparato, pulito, ben fatto. In certi apparati invece metà è vuoto, capito? Anche se sono componenti classici, la metà rimane vuota e poi piccoli raggruppamenti di componenti. Più quella scheda dell'eco, che è la cosa più grossa che c'è, neanche la più inutile. Io adesso l'ho messo per... così. Lo sai con il 4000 c'è una cosa... Gliel'ho chiesto a Carlo per cercare, cazzo, che mi ha detto che aveva buttato tutto per far cura a lui. Insomma, avrei fatto l'ave con le 4000. C'era Roberta di Bedura, te la ricordi? Bedurina che avevamo, quella si faceva bene. C'era anche Bibucci un 31, la manca, una piazzata. Ma il merito di Zapparo tutto per far cura a lui. Quelli che ritirano la roba buttata, magari se li rivendo, ragazza loro, chissà quanti baracchini buttano, se li immagini, ho apparati anche di altri tipi, da farsi d'oro, guarda, ci avrei tappezzato le pareti con gli apparati. Questo c'è i baracchini, ce ne sono parecchi in giro, devo solamente cercare i vecchi cibi e chiedere, il discorso è quello, è pieno Sassari, è pieno, tu immaginati... Piano del Sole c'era Gianni P, ti dico Gianni P, che poi c'era Coso, e che vai a trovarli a uno a uno, per dire, tutti quanti c'erano 200 canali, per dire, perché usavano quasi 200 canali. Prima è a trovare, ricordate il cognome, a chiedere, sono sicuro che baracchini in giro ce ne sono parecchi, che magari sono conservati dentro un armadio, per dire. Gente che non usa più, anche ragazze, anzi ragazze sono le prime, che sono sposate, cosa fanno? Usare il nuovo baracchino per avere casino. Quindi se ti fai un giro, Sassa di baracchini è pieno. Sì, Gianni Pin ti ha detto, ma fammi pensare, era giovane all'epoca, Mascano si chiama di cognome. Non lo ricordo più la verità, non mi ricordo più. Quindi poi c'era, se ti ricordi bene, i figli di Cossiga, c'era di Francesco Cossiga, Fabio, che adesso abita a Olbia. Ricordo c'era un bel chilo, una bella antenna, c'era la mantova per dire. Ma è bussato se ci porta gente qua, meglio non pensavi vista per dire. Quindi cioè, ricordo che tutti quelli che parlavano una volta, nome, cognome, cose del genere, è un casino, capito? Niente lei di Giuda c'è, la mantova di cosa c'è, si chiama Antonio il tassista, lì a quella piazzata di Piaduca di Abruzzi, che la tabbassa è completa, addirittura c'è anche la mantova piazzata lì. Ma la Chino non ne ha più perché se lo ha venduto, per dire, però gli antenne ci sono. Se ti fai un giro di cose, sai quanto è qualche cosa di recuperi? A Sassari. Ti fai il gogo, ti fai, per dire, se ti serve qualcosa. Ma purtroppo non è che, cioè, veniamo faccia di culo, io non ho di andare a chiedere a fare la pontuglia, non ne frega niente, capito? Chiedo l'antenna, andare ad attaccarla e cose del genere, non me la futti nulla, non è che vada a fare la volto io. Guarda l'antenna, me la compro e me la pago se la biego, per dire. Se tu c'è anche la finestra di Parigi di Giovacchino buttata lì da sopra, dove abitava prima lui, mi figurati. Chissà che quello di Salà sarà bella oscillata, originosa, sarà senz'altro. È rimasto solo la base con i quattro variali, lo stivo in terra. In quel tempo allora ci vado in quel condominio che era la finizione, ma neanche la vergogna per chiedere una cosa del genere, ma si scherza. Vabbè, magari vai a trovare la vedova e gli dici, guardi, mamma mia, portatevi via tutta questa roba che non la voglio più vedere, e allora porti un camion e ridi tutto. E quindi ci sono, sono poco, ma è morto Mario Planeta, quindi è ancora, avevano già portato via tutto, non ti preoccupare, io e Tive, antenne multibanda, parecchi megametrici, VHF, OKF, non ti preoccupare che la gente è già passata, mia. Non volava così, no? Cosa ne fa il figlio di tutto quella roba lì che lui usava? Se non aveva proprio niente, figurati. C'è un'antenna che è a cerchio, che pesa 30 kg. Sta scherzando, è un casino, quella linea che salire sopra, attaccarla, portarla via. C'ha 4-5 caratteri rigidi 213 cotte, che sembrano che ci sia passato cazzo di Lucia Porto colcata addirittura, quanto sono i capi vecchi, neri e addirittura tutti quanti le regioni centrupeci, come se avessero tagliato a fette, figurati, in quel tempo, perché sono andato io a attaccare la direttiva e se la porta via un amico mio, per dire, e quindi so cosa vuol dire. Adesso senz'altro, siccome ho visto il garage che era pieno di apparecchiature, c'era roba di 5-6 direttive, addirittura c'era quelle V e U verticali, c'era 2 o 3 più altre cose, quindi senz'altro sono altra gente e altra di via tutto. Perché lui ormai è morto, quindi cosa se ne fa di fare i familiari di tutta quella roba lì? A figa non mi piace, non mi ha fregato per niente, quindi a un certo punto ci sarà una figa lì senz'altro, a portarsi via tutto. E tutti così sono i figli, non gliene frega niente delle radio di padre, boh. E nuovi non entrano. Quindi mi sa che è destinata la 27 a svuotarsi definitivamente, così come si era svuotata, mi pare, cos'era, metà anni 2000, no? Proprio. E vabbè, pazienza. Adesso sa che si compra i baracchini, che si fa le colonne di macchine quando vanno in gite, vabbè, camionisti per uso testa che gli serve, e poi boh, come PMR se li comprano gli escursionisti che vanno in bici, che monta antenne, non lo fanno anche per passione di radio, capito? Ben pochi. Chi lo regala al figlio per giocare il PMR, ce n'era uno a Lune Sole fortissimo, addirittura l'ho sentito a Platamona, mi è arrivata la vocina, perché parla in un modo particolare, a Platamona, probabilmente ho trovato proprio un spiraglio giusto, boh, riflessioni, mi è arrivato il segnale anche se basso. Va bene, da. Che facciamo? Chiudiamo. Ma sai cos'è? La passione nostra è ormai morta, diceva quello, quindi cioè se io mi metto a spendere per dire 30-40 mila euro di apparecchiature, mio figlio quella cazzo mi dice, bel coglione è stato mio padre, cazzo, bel coglione. Ha speso tutte queste cose qua in mondezza. Automaticamente c'ha ragione, perché non deve fotte nulla, cioè non è che poi gli no, guarda, io uso il baracchino, lui usa la tettura, lui dice, oh, a me il baracchino mi ha fatto proprio un cazzo, a me mi interessa la cazzo del figlio, per dire, vado e prendo il computer, cazzo, vado e faccio quello che facevi tu, per dire, a 20 anni, adesso lo fa da 14, per dire, c'ha anche ragione, eravamo i coglioniti quel periodo lì. Ormai c'è il coso, c'è il computer, vai lì, la ragazza è tua, cazzo, vai, fai quello che devi fare e poi tu vieni indietro, cazzo, ma a chi non c'è bisogno? Oh, yeah. Ormai c'è il telefono, c'è il computer, c'è un sacco di altre cose nuove, quindi guarda che è morto, purtroppo è morto. E basta, non ci possiamo fare niente. Non c'è più il boom di una volta che c'erano 300 persone in 40 canali che ci volevano, ce ne volevano più di 240 per poter modulare, il discorso è quello, ma non ho mai nato il computer, quindi tutti spariti. Poi sono nati questi PMR, questi VPP, quindi la gente va lì, perché costano poco, 15, 20 euro, 30 euro, trovi quanti ne vuoi per dire. Tu vedi se pubblicizzano per dire all'idol un baracchino 40 canali per dire 50-60 euro, normale, pubblicizzano questi PMR e basta, e quindi la gente si compra quelli. Ah beh, di certo non vengono il baracchino. Oggi sono passato da Media World, ovviamente c'erano i soliti PMR Brondi, poi uno Intec, la gente vede quelli e crede anche che esistano solo quelli, perché pubblicità in TV non si fa e non, forse non se n'è mai fatta in Italia, di baracchi. Non li vendono nei supermercati, li vendono solo nei soliti negozi di elettronica per un pubblico più ristretto. Fusaro vende Polmar, vende Lafayette, lui, sì. GBC vende Midland, Melchioni non so più cosa vende, capito, pure cataloghi particolari tipo Ciclo Elettronica, il Fu Ciclo Elettronica o tutti quegli altri, lì c'erano le pubblicità dei baracchini, ricordi, Radio Rivista, qualcosa lì. E vabbè, pazienza, vuol dire che siamo dei dinosauri destinati a scomparire. Solo che, però poi tutti questi apparati cosa faccio? Me li sbatto a culo. Ma è così, purtroppo è così. Non c'è più pubblicità di una volta, vedi? Una volta la UPI vendeva i macchine sopra le 14. Mamma mia, aspetta un attimo. A culo sta la roba. Cosa ci può sapere invece la pellicola, aspetta. Il programma, c'è l'esco posto per te. E già sale un po' padre. Circa 5 watt. Vediamo se c'è. Ci sei, ci sono due di coglioni che ci ho portato a prendere 33 anni tutti e due. Filata a Tinica, si rincontra adesso. Ehi, Antonio, sto notando che senza accordatore con 4 watt quanto aspetta, ferma, c'ho uno e uno di stazionari qui, provo un attimo sul 40, torno subito. Va bene, stavo qua. 1 e 2 sul 40, il miracolo si è compiuto, sono scese di nuovo le stazionarie perché non sta piovendo, hai capito? Quindi la coratore non lo metto nemmeno, almeno per il momento. E vabbè, però se sali di potenza già ci sono, un pochino. La cuscia, ho notato che ogni tanto, a seconda di che un poco faccio contatto nel blocco canali, spia di trasmissione e ricezione, prima richiudo e non funzionava, l'ho toccato appena, ho dato un colpetto e mi ha ripreso a funzionare, e d'altronde l'età si fa sentire, da meglio quello che altro. I finali sono originali, non sono mai stati toccati, sono finalini piccoli, fanno ridere a vedersi, non so cosa siano. Infatti funziona a voi. Ho notato un aspetto, fammi pensare, ho notato una cosa, Antonio, se io vado in banda laterale e parlo con voce normale come sto parlando qua, esce bassissimo di watt in banda laterale. Quando fischio invece va a 20 watt, in poche parole la potenza ci sarebbe, però è basso di radio in banda laterale. Ecco, come si chiama la modulazione della banda laterale per caso? LC? No, LC per la M. Vabbè, comunque ti ha anche PT in banda laterale, l'altro rispetto a questo, comunque sia. Perché ho visto uno schema classico della IPT3006, no? E c'era tale potenziometro watt AMFM, tale potenziometro watt SSB, poi c'era modulazione AMFM e l'altro era ALC SSB, come se fosse il controllo della modulazione, mi? Ho capito. Comunque per la FM bisogna scrivere, dovrebbe essere debiti scritto. E adesso non mi ricordo bene, Antonio, magari è separato, anzi sono sicuro che sia separato. E lo scostamento, capito? Ti aspetta come il termine. Vabbè, dai, non me ne ricordo. Ne vuoi provare un istante in USB? Non c'è bisogno, non ti preoccupare. Comunque sia, già, lo proviamo qua, ti fai prima direttamente qua a provarlo. Poi io sai adesso al momento giusto facciamo quella modifica, vedrai che ci conto più forte, è quella cosa di un cassotto per cui e ti arrampi, quella va bene solamente a rubare un po' di rame la bacchetta lì, c'è il basta. E cosa? Antenna. Vabbè, quello è alluminio, si può sciogliere, ci facciamo un bel chigno. Sì, con 40 la facciamo al limite, un po' di arrosto facciamo. Oh, ecco, abbassato. Eia. Va bene, poi si vedrà. No, appena, dico, tipo alzarlo del 10% ALC o quello che è, insomma. Antonio, quasi andiamo a dormire, da. È quasi l'ora, così almeno mi sveglio anche prima. Ciao Antonio, buonanotte, ci vediamo domani, poi decideremo come e quando, perché di mattina mi alzo tardi. Poi di sera vediamo, se fa bel tempo porto mamma a pascolare, se fa un tempo meno bello ci mettiamo d'accordo. E vabbè, ok. Non sono problemi a pascolare, quando fai un bel giro al limite funzionai di busti per fare una passeggiata, ma poi rimanere chiuso così che altrimenti sono diventi peggio di meme, che diventi esaurito, quindi figurati tu, mio fratello, me, da quando mamma è settimana a casa di mia sorella, è arrivato, cazzo, è diventato gentile, si è calmato. Tu figurati che dentro, dentro a casa, mica buttami, ti dai l'ansia, ti viene, diventi nervoso, non sai cosa fare, eccetera, eccetera, quindi è meglio uscire, che è meglio, Marco, te lo sto dicendo per quel motivo lì. Quindi convincela, facci un giretto, vedrai che ogni giorno quando comincia, magari, oppure, boh, non lo so, tu hai trovato la volta, cosa fare, iscrivi da un coso per parlare, almeno sta lì, si diverte e se la piglia in culo, almeno più tranquilla, sta più calma e rilassata, conosce anche molto più gente, eccetera, eccetera. Eia, va bene, oh, sta scaldando poco anche l'apparato, va bene, è inverno, quindi in estate scalda di più. Poi con 4 watt è inutile avere anche alette di raffreddamento, questo era adatto per 4 in AM e 12 SSB, quindi 12-15, quindi non c'è bisogno. Vabbè Antonè, ti saluto, buonanotte, ci sentiamo alle prossime domani, credo. Ok, domani allora, ci sentiamo, stammi bene, buonanotte, buon tutto, salutami a tutti.